Mi sia lecito anzitutto ringraziare nella persona del professor Prodi, nostro direttore, questo istituto per averci ospitato qui in questi giorni e naturalmente la signora Karin, preziosa collaboratrice dell'istituto, senza la quale forse nulla avrebbe potuto essere realizzato di quello che ci proponiamo di realizzare. Quindi grazie Prodi, grazie signora Karin. E passo alla mia relazione, che leggerò pregando poi qualcuno, forse il professor Schieder o qualcuno dei nostri giovani bilingui che hanno una profonda conoscenza del tedesco e dell'italiano insieme, di darne un breve riassunto per le future discussioni. Grazie. Per lungo tempo, dopo la fine degli imperi coloniali avvenuta in seguito al secondo conflitto mondiale, il tema del colonialismo europeo, dell'espansione oltremare delle nazioni del vecchio continente è stato, se non del tutto dimenticato, piuttosto trascurato dalla storiografia, evidentemente consapevole della chiusura del ciclo storico nel quale il fenomeno era sorto e si era sviluppato, e proclive ad attuare nei suoi confronti una sorta di rimozione. La caduta dell'interesse nei confronti degli eventi che quell'espansione aveva caratterizzato, spesso addirittura tradotta nella perdita della memoria collettiva di una serie di vicende che avevano coinvolto, almeno nel caso italiano, le tre generazioni susseguitesi dagli anni Ottanta del secolo scorso alle soglie degli anni Cinquanta del nostro, e che aveva visto partecipi nel tempo, anche simultaneamente, molte centinaia di migliaia di civili e di militari impegnati in operazioni di guerra e di pace, era essenzialmente dovuta alla considerazione, prevalente in larghissima parte della storiografia e della cultura, e quindi diffusa dai media, della negatività sul piano etico-politico di quella storia, le cui fasi terminali per l'Italia si vennero a svolgere al tempo del fascismo. Una sorta di giudizio moralistico di condanna sembrava comunque per lo più aver colpito il colonialismo e le vicende che lo avevano caratterizzato, giudizio fondato sulla valutazione negativa delle guerre, delle violenze, delle sopraffazioni che ne avevano connotato sovente la genesi e lo sviluppo, oltre che sulla considerazione dello sfruttamento, in molti casi imposto o anche soltanto avviato, da parte dei dominatori ai danni delle popolazioni indigene dei territori assoggettati e soprattutto di quelle del continente nero che era stato oggetto dell'ultima espansione europea. Era un giudizio che prescindeva, peraltro, dalla considerazione delle motivazioni ideali ed umanitarie che pure talvolta avevano connotato o anche soltanto mitizzato la spinta espansionistica europea in Africa, ravvisandone le cause e le motivazioni soltanto nella volontà di conquista e nel desiderio di assoggettamento per trarre vantaggio dai nuovi possessi territoriali. Eppure, al di là ed oltre le ragioni di natura meramente imperiale che pure determinavano, come in altri fatti della storia, questa volontà di affermazione nazionale di espansione oltremare, avrebbero dovuto apparire anche altre motivazioni, talvolta indicate palesemente, tal'altra soltanto sottese. Queste erano l'intenzione e la volontà dei colonizzatori europei di voler operare per l'incivilimento delle popolazioni di colore, la lotta alla tratta e alla malapianta della schiavitù e la modernizzazione del modo di vivere degli indigeni. Che queste motivazioni si accompagnassero alla visione di una superiorità, di un primato o anche di una missione dei popoli europei o almeno di taluni di essi è vero, ma che fosse anche presente nella coscienza collettiva e nell'opinione pubblica o almeno in larga parte di essa l'idea di operare per un obiettivo non soltanto di mera potenza imperiale, ma pure di diffusione e di progresso della civiltà, è un dato indubitabile, che sembra però oggi spesso dimenticato. Non a caso, nella visione di stampo manicheo del passato più o meno recente, emersa e diffusa dopo il secondo conflitto mondiale, non soltanto tra gli sconfitti, ma anche tra i vincitori di questo, e che faceva dell'imperialismo e del colonialismo una delle espressioni più evidenti della presenza del negativo della storia, poco spazio v'era per la formulazione di un giudizio più pacato e meno distante dalla comprensione di quei fenomeni. la cui natura è estremamente complessa e difficilmente schematizzabile in formule precostituite, per lo più dettate o anche soltanto inficiate da presupposti moralistici. L'assenza, o meglio, la scarsa presenza della ricerca storica su un tema di questa grandezza ha avuto, almeno in Italia, anche questa motivazione, e pochi sono stati finora i tentativi di rileggere storicamente, e non quindi in base a mere valutazioni negativistiche implicanti per lo più una sorta di condanna senza appello, le vicende dell'espansione coloniale italiana nel Corno d'Africa, in Africa settentrionale e nell'Egeo. Le ricorrenti e costanti motivazioni di questa condanna sono state, come è ben noto, ravvisate, oltre che nell'espansione, considerata assurda ed iniqua in quanto tale, anche nella violenza delle operazioni militari, nella durezza delle repressioni effettuate contro rivoltosi e guerriglieri, nello sfruttamento economico dei territori assoggettato ed anche nella politica indigena vista costantemente come discriminatoria e razzista. Al di là di questi giudizi e degli elementi di verità che sicuramente contengono, non si può ignorare comunque come questa espansione coloniale, a suo tempo esaltata e idealizzata, poi dopo la sua fine, deprecata, vilipesa e condannata, avesse costituito un elemento essenziale della storia politica della penisola, sino alla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e alla perdita da parte dello Stato italiano di un ruolo di media, o addirittura di grande potenza, nel passato spesso ricercato e concepito soprattutto in funzione della dominazione oltremare. Indispensabili quindi i tentativi di rilettura, insieme serena e meditata, di pagine così importanti delle vicende vissute dall'Italia. Di questi, il più significativo indubbiamente è stato quello compiuto nell'89 dall'amministrazione archivistica, con la preparazione e l'organizzazione, dovuta al professor Renato Grispo, che allora li dirigeva, di un grande convegno a Messina e Taormina sulle fonti e i problemi della politica coloniale italiana, i cui atti sono purtroppo ancora in corso di stampa. Mi hanno detto che usciranno tra mesi. La riuscita e la vasta risonanza di quell'incontro, e più ancora l'interesse che aveva immediatamente suscitato per i temi affrontati e i problemi trattati, interesse che si è riflesso successivamente in qualche altra iniziativa, anche se di minore portata e non sempre con le medesime obiettività e la stessa ispirazione, mi ha fatto comprendere la necessità di una ricerca parallela, di un confronto sulle esperienze coloniali delle due nazioni, l'Italia e la Germania, più tardivamente delle altre, giunte all'espansione oltremare. L'immediato appoggio del professor Prodi e il consenso del professor Schieder, ai quali va il mio, anzi credo di poter dire sicuramente il nostro ringraziamento, hanno permesso che l'idea si potesse realizzare in questo bellissimo istituto trentino. Gli organizzatori di questa settimana, e qui parlo in prima persona, anzi a doppio nome, sperano che dalla ricerca comune e dal confronto possano ricavarsi elementi di conoscenza e di giudizio di somma utilità per quanti compiono o vogliono compiere studi su questa essenziale pagina di una storia non soltanto politica, ma anche economica, sociale, religiosa, giuridica, militare, e che ha avuto pure una notevole incidenza sulla letteratura e più in genere sulla cultura dei due paesi, la Germania e l'Italia. Il confronto tra le due esperienze coloniali è stato proposto nella consapevolezza della presenza di taluni elementi comuni alle due storie, che restano però naturalmente non mai del tutto omologabili tra loro, se non semplicisticamente e in modo del tutto schematico, come ovvio in ogni vicenda inserita in particolari contesti statali e nazionali. Semplicisticamente e in modo del tutto schematico, secondo il clima ideologico e politico di qualche momento, però, anche in passato quelle vicende erano state viste e presentate talvolta al fine di costruire un parallelo o meglio forse un confronto tra loro. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, 14-18, ed immediatamente dopo la sua fine, sia in Italia sia negli altri stati dell'intesa, a scopo chiaramente propagandistico, si volle diffondere un'immagine negativa del colonialismo tedesco, demonizzandone al massimo i connotati, spesso al confronto di quello degli alleati, vantati invece nella loro positività. Ciò doveva servire dapprima a suffragare sul piano propagandistico gli sforzi tesi a distruggere l'impero coloniale della Germania, poi per giustificare tale distruzione e la parallela istituzione dei mandati affidati alle potenze vincitrici. Sempre alla presenza, a proposito della presenza di visioni semplicistiche e schematiche, va rivelato a riguardo come successivamente, al tempo dell'asse Roma-Berlino e nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nella tendenza alla ridistribuzione dei possedimenti coloniali europei largamente ispiratrici i disegni imperialistici sia del nazismo che del fascismo, non poche furono, almeno in Italia, le iniziative tendenti a far conoscere l'esperienza coloniale tedesca. Si trattava, evidentemente, nella maggior parte dei casi, di iniziative partitiche o di governo, per lo più motivate dalle esigenze propagandistiche del momento, spesso carenti sul piano dell'obiettività, e che rivelavano nei loro autori, portati a riflettere anche sul tema coloniale, le ideologie espansionistiche espresse dai due regimi, la totale mancanza di percezione della realtà in atto. Mossi da quelle ideologie, i fautori degli espansionismi oltremare delle nazioni dell'asse non si rendevano conto, infatti, delle tendenze indipendentistiche ormai presenti nei popoli colonizzati ed ignoravano quasi del tutto il fatale avvio di questi a un'indipendenza che, già ottenuta da taluno di essi, sarebbe stata conseguita dalla maggioranza degli altri non molti anni dopo. Conclusa ormai l'età del colonialismo e finiti gli imperi coloniali, si deve poter fare la storia di quello italiano e di quello tedesco, dei due primi che giunsero al termine del loro ciclo, liberi, almeno si spera, da condizionamenti di ogni tipo e quindi anche da quelli di natura diversa ed anzi opposta rispetto ai precedenti, che avevano, se non del tutto dominato, certo largamente influenzato la storiografia della prima metà del secolo. Il fatto che i due colonialismi siano iniziati più o meno nello stesso periodo, cioè sul finire dell'Ottocento, può comunque in certa misura giustificare questo nostro accostamento, che contribuisce a spiegare in parte, per il ritardo del loro inverarsi rispetto a quello delle altre nazioni europee, Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra, le difficoltà, i limiti e certi insuccessi cui andarono incontro. Difficoltà, limiti ed insuccessi, peraltro, che avevano caratterizzato evidentemente anche altre esperienze coloniali. A parte naturalmente il caso spagnolo, con il terribile genocidio e lo sfruttamento integrale delle popolazioni precolombiane, ai quali ricorrentemente si era volta, dopo la guerra di Cuba del 98, la letteratura storica, allo scopo soprattutto di dare una base ideologica alla rivoluzione delle colonie iberiche d'oltre Atlantico, le difficoltà, i limiti, gli insuccessi degli altri colonizzatori avevano avuto per lo più modo di apparire ormai remoti e secondari rispetto alla somma delle conquiste o dei risultati conseguiti o almeno vantati dagli stessi. I due colonialismi, l'italiano e il tedesco, vennero preceduti, come è noto, dall'azione frequente di missionari che, operando con finalità essenzialmente religiose ed umanitarie, contribuirono in modo notevole a suscitare l'attenzione per le terre e i popoli destinati a divenirne l'oggetto, aprendo al tempo stesso nuove prospettive all'azione di evangelizzazione delle chiese cristiane, talvolta favorita, tal'altra invece non troppo apprezzata dai governi, timorosi che potesse creare qualche ostacolo al dispiegarsi della loro politica di conquista. I governi, comunque, si trovarono ben presto ad affrontare una somma di problemi in natura più complessa, non soltanto collegati ai rapporti spesso problematici tra le chiese, le credenze o le fedi degli indigeni, ma anche derivanti dalla non sempre facile relazioni tra le differenti comunità etnico-religiose. Ne offriva un esempio, per l'Italia, la complessa vicenda degli ebrei di Libia, attentamente studiata dal compianto De Felice in uno dei suoi fondamentali lavori. I viaggi degli esploratori, poi, sostenuti da società geografiche e da istituti scientifici, diffusero l'interesse per quelle terre e per quei popoli tra le opinioni pubbliche delle due nazioni, come peraltro era già avvenuto, stava ancora avvenendo in Francia, in Inghilterra e nel Belgio. Inoltre, per i risultati conseguiti sul piano della conoscenza della realtà coloniale, costituirono spesso uno dei motivi determinanti il successivo intervento di governi riprivati a favore dello sviluppo ulteriore di istituzioni dedicate allo studio e all'insegnamento di quella realtà, anche in funzione del personale addetto all'amministrazione dei possedimenti oltremare. Personale che, malgrado le iniziative e gli sforzi compiuti dai governi colonizzatori, spesso apparirà numericamente insufficiente e non del tutto preparato ad affrontare i propri compiti, specie nel caso italiano. Insieme talvolta all'attività di missionari e di esploratori, ma più spesso di seguito ad essa ed a sostegno di iniziative commerciali di vario livello condotte da compagnie o società anche private, sia la nascita vera e propria di due colonialismi, con una serie di azioni economiche, politiche e militari che la Germania e l'Italia compiono nello stesso periodo, sul finire del secolo XIX e l'inizio del XX. Queste azioni hanno come obiettivo principale, ma non unico, il possesso di territori africani, perché talvolta si volgono anche altrove, come dimostra la conquista germanica di taluni arcipelaghi dell'Oceano Pacifico e l'insediamento a Tsingtao, oppure Chiao Chao, in Cina, e negli anni del Novecento l'acquisto da parte dell'Italia giolittiana del Dodecaneso, Egeo, avvenuta insieme a quello della Libia. Si trattava di un acquisto, quest'ultimo, destinato ad esaltare al massimo le aspirazioni espansionistiche italiane, alla pari dell'ampliamento dei confini della colonia tedesca del Camerun, in seguito al compromesso che, ponendo fine alla crisi marocchina, ha assunto il significato di potenziare l'espansionismo germanico in Africa. Le due esperienze coloniali, come è noto, si concludono fondamentalmente nello stesso modo, e cioè dopo una guerra perduta, quello tedesco dopo il primo conflitto mondiale, quello italiano, che raggiungerà il suo apice successivamente con la conquista dell'Etiopia durante il fascismo 20 anni più tardi, dopo il secondo. Durante i due conflitti, che segnarono la fine del colonialismo tedesco e di quello italiano, i territori in cui questi si erano sviluppati furono teatri di scontri militari, più aspri però nel corso del secondo che nel primo, soprattutto in Libia, divenuta almeno per l'Italia il fronte di combattimento di maggiore impegno, che vide anche la partecipazione massiccia di unità dell'esercito tedesco. Si può comunque sostenere che l'assunzione da parte di questi conflitti di un carattere veramente mondiale fu dovuta, sia pur soltanto in parte, al fatto che vennero combattuti anche con la partecipazione di truppe di colore, non soltanto in Europa ma anche nelle colonie, più o meno lungamente difese dalle forze armate dei colonizzatori contro quelle avversarie, in vicende talvolta mitizzate, come la particolare guerriglia nella boscaglia equatoriale condotta dal 14 al 18 dal colonnello Leto Forbeck dell'Africa orientale tedesca, o la lunga resistenza di qualche isolato presidio italiano in Etiopia nel 1941. I due colonialismi sono legati ad una fase di crescita economica connotata da un forte sviluppo industriale, più intenso naturalmente nella Germania imperiale, ma presente pure in Italia, specie durante l'età giolittiana, quando la vittoria nel conflitto italo-turco dell'11 consente al paese di superare le gravi frustrazioni che l'avevano afflitto per l'affare di Tunisi e per la sconfitta di Adua. Si trattava di frustrazioni per insuccessi la cui causa prima era dovuta alla debolezza politica e alla arretratezza economica che hanno reso l'avvio tardo ottocentesco dell'esperienza coloniale italiana ben più difficile rispetto a quella tedesca, condizionandone in larga misura lo sviluppo. Altri fattori sembrano però accumularle, le due esperienze. Il fatto, ad esempio, che si accompagnano alla creazione di grandi flotte da guerra, la più potente ed agguerrita Ochseeflotte tedesca, destinata a porre la Germania in rotta di collisione con l'Inghilterra, e l'abbastanza robusta marina italiana, concepita per elevare i destini navali del paese tristemente offuscati dopo la giornata di Lissa. Sono fattori, inoltre, che contribuiscono alla formazione di quel clima politico e culturale nel quale nasceranno e si svilupperanno nei due paesi, variamente secondo le condizioni politiche e le circostanze storiche, le idee nazionalistiche che tanta incidenza ebbero nelle vicende del primo Novecento, contribuendo alla rottura di quegli equilibri non soltanto europei che avevano caratterizzato, dopo il congresso di Berlino del 1878, la Belle Époque. Gli esempi di questi programmi nazionalistici, che anche a proposito della presenza coloniale in Africa avrebbero portato alla rottura di quegli equilibri, non erano davvero pochi. L'idea, concepita in certi ambienti imperialisti tedeschi, di una Mittel-Africa germanica, abbracciante i territori dall'Oceano Indiano all'Atlantico senza soluzione di continuità, ovvero da Dar es Salaam nell'attuale Tanzania sino a Douala nel Camerun attraverso il Congo, ad esempio, era destinata però ad urtare il disegno egemonico britannico di un controllo globale dal nord al sud, e cioè dal Cairo a Cape Town, della linea che più o meno a ridosso della parte orientale del continente nero lo attraversava per migliaia di chilometri longitudinalmente. L'aspirazione italiana alla formazione di un vasto impero abbracciante i paesi del Corno d'Africa rendeva l'Inghilterra preoccupata per la sicurezza futura della Via delle Indie, del fulcro cioè del suo sistema imperiale, mentre il desiderio di prolungare verso il bacino del Chad i confini della Libia appena conquistata si scontrava con la presenza francese nell'Africa equatoriale, consolidata dopo l'incidente di Fashoda, la cui composizione aveva accordato ai governi di Londra e Parigi, costituendo la premessa dell'Entente Cordiale e al tempo stesso garantendo i loro possessi africani dalle aspirazioni altrui. I due colonialismi, tedesco e italiano, hanno come noto motivazioni spesso diverse e si prefiggono obiettivi talvolta differenti, tra i quali però non appare quello della fondazione di un luogo idoneo alla deportazione o alla relegazione di individui colpevoli di reati, come fu per quello inglese ad esempio in Australia. Va rilevato comunque come la ricerca di aree da cui trarre materie prime, i territori dove inviare la manodopera eccedente, i mercati per l'esportazione dei prodotti della madrepatria e la conquista di basi militari e marittime oltremare, utile sia alla tutela del proprio commercio, sia in funzione di un futuro ulteriore espansionismo, non siano sempre elementi comuni alle due esperienze. Queste, pur quasi contemporanee nella nascita, riflettono un diverso grado di sviluppo delle due nazioni e anche una differente consapevolezza del proprio ruolo e del proprio destino. Un saggio, come quello del Bulow, sulla Germania imperiale, consapevole delle prospettive egemoniche che la potenza tedesca poteva garantire alla sua patria anche oltremare, e scritto dopo la soluzione compromissoria seguita alla crisi marocchina, non ha riscontro in alcune pagine di uomini di governo italiani, coscienti evidentemente, dopo le illusioni crispine tragicamente infrante nella giornata di Adua 100 anni or sono, dei limiti delle possibilità nazionali e pertanto indotti a un più pacato realismo. Diverso invece e decisamente più oltranzista l'approccio di scrittori e pubblicisti, di geografi e archeologi, che superate le delusioni africane della fine dell'Ottocento e anche accantonate definitivamente le remore antiimperialistiche diffuse in parte dell'opinione pubblica italiana, in concomitanza con l'impresa di Tripoli e con la conquista delle isole dell'Egeo, si lanceranno a teorizzare i destini imperiali di una nazione esaltata come l'erede di Roma e di Venezia. La concepiranno pertanto spinta dalla tradizione e dalla storia, antiche o più vicine, a un'espansione oltremare a vasto raggio, in Africa settentrionale, nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente, oltre naturalmente nell'area del tutto estranea a quelle dell'acrocoro etiopico, nei confronti della quale, prima e dopo i fatti di Dogari e di Adua, ed anzi forse a causa di questi, parevano sentire una sorta di attrazione fatale. Tradizione e storia, invece, alla quale non si poteva in alcun modo riferire l'espansionismo coloniale tedesco, completamente nuovo rispetto ad esse, ed operante invece a tutto campo, nel Togo, nel Camerun, nell'Africa del Sud-Ovest che si affacciano sull'Atlantico, nel Tanganyika, allora denominata Africa orientale tedesca, in riva all'Indiano, nelle già menzionate isole del Pacifico, oltre che a Tsingtao in Cina, possedimento per nulla omologabile per la notevole importanza strategica e mercantile che aveva alla piccola concessione italiana di Tianjin. Non a caso, da quella lontana base cinese del Kwantung, subito attaccata dai giapponesi desiderosi di cancellare ogni presenza europea in Estremo Oriente, salperà nel 1914 la squadra navale di Phong Phe verso il suo tragico destino. Di qui però si può notare la sola, vera, profonda connotazione che sembra distinguere i due imperialismi. Quello italiano, lanciato prevalentemente alla conquista di spazi africani e mediterranei piuttosto vicini alla madrepatria, è portato talvolta ad individuare in quelle terre assoggettate una proiezione e un ingrandimento della prima, alla stregua di quanto la Francia andava concependo per l'Algeria conquistata sin dal 1830. Così l'Italia fece infatti per la Libia, la cui area costiera veniva considerata per certi aspetti una sorta di porzione del territorio nazionale da omologare progressivamente ad esso, in base a un graduale processo concepito e favorito dalla scarsezza quantitativa della locale popolazione indigena e dalla sicuramente maggiore facilità di un'immigrazione dalla penisola, forse sopravvalutandole al momento le potenzialità economiche, non era stato scoperto il petrolio. Fu un processo avviato, anche se allora con qualche incertezza, sin dall'età liberale, proseguito poi dal fascismo dopo la sanguinosa, terribile repressione della rivolta senussita della Cirenaica e portato a compimento alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale con la provincializzazione della Quarta Sponda e con l'insediamento massiccio di decine di migliaia di coloni impegnati nella valorizzazione agricola delle sue terre desertiche, anche in ossequio alle ideologie ruralistiche del ventennio. Quello tedesco, invece, non sembrò mai caratterizzato da simili finalità, rientrando negli schemi del tradizionale espansionismo europeo, sorto e sviluppatosi mantenendo ben differenziato lo status della madrepatria da quello delle colonie. né è lecito considerare un'eccezione a ciò taluni progetti vagheggiati e poi presto caduti a proposito dell'Africa del Sud-Ovest, nei confronti della quale certi ambienti economici, al momento iniziale, per un brevissimo periodo, sembravano concepire un assetto diverso. Comunque, per quanto quella colonia fosse assai poco popolata e vicina per posizione geografica agli stati boeri dell'Orange e del Transvaal, paesi ben presto soggiogati dall'Inghilterra e inseriti manu militari in Sudafrica, e malgrado si ritenesse, a torto o a ragione, potesse offrire qualche maggiore prospettiva di vita ed attività per le piantagioni e le miniere a piccoli nuclei di coloni provenienti dalla madrepatria, il suo status non parve differenziarsi sostanzialmente da quello delle altre colonie africane, acquisite dalla Germania in nome di un'ideologia imperiale formulata nell'età post-bismarchiana al tempo del cancelliere Caprivi, che rivendicava per il paese un ruolo e una presenza non soltanto europei. La differenziazione nello status delle diverse colonie caratterizzò invece sempre l'esperienza italiana e parve evidente nelle tecniche di governo, nelle politiche indigene, nella legislazione e nell'amministrazione delle differenti aree ove quell'esperienza si realizzò. Così un assetto e un regime differente rispetto ai possedimenti acquisiti successivamente ebbero sin da principio i territori e le popolazioni delle colonie italiane del Corno d'Africa, dalla primigenia colonia eritrea alla Somalia, ingrandita poi dell'Oltre Giuba, ceduta dall'Inghilterra negli anni venti in compenso per la partecipazione al primo conflitto mondiale. Assetto e regime configuratesi lentamente e gradualmente a causa delle molte perplessità e delle tante incertezze che accompagnarono gli esordi e l'espansione italiana, specie dopo il gravissimo trauma provocato dalla sconfitta di Adua e dalle indecisioni che parvero accompagnare la politica africana di un paese che era stato già ferito negli anni Ottanta dalla mancata acquisizione della Tunisia. Questa, la Tunisia, era indicata dalla sinistra al potere dal 76, sulla scia peraltro di un assai vago accenno mazziniano, come il primo obiettivo da conseguire oltremare, per l'estrema vicinanza al territorio nazionale e per la forte presenza di un'immigrazione di agricoltori e pescatori italiani, per lo più proveniente dalla Sicilia. L'assetto e il regime, previsti sin dall'inizio dall'Italia per i suoi possedimenti del Corno d'Africa, erano quindi diversi rispetto a quello deciso poi progressivamente per la Libia, perché i primi erano destinati ad essere considerati alla stregua di tradizionali colonie e come tali assoggettate a un regime del tutto particolare nel quale l'amministrazione militare iniziale e la successiva civile operarono nella consapevolezza della diversità che le caratterizzava rispetto alle madrepatria, consapevolezza destinata a durare sino alla fine della presenza italiana, determinandone lo status. La Libia, invece, era stata vista, in funzione delle sue, se non al momento della conquista, sicuramente ben presto, in funzione delle sue prospettive di omologazione o addirittura di unificazione sul piano amministrativo, legislativo e civile all'Italia, della quale era destinata ad apparire una proiezione quasi immediata. Un'osservazione a questo punto emerge spontanea e riguarda le origini sia del colonialismo tedesco sia di quello italiano, o meglio forse concerne l'ideologia e la volontà politica che sta alla loro base. I due fenomeni sono nati, come evidente, dopo la realizzazione dell'unità germanica il primo, dopo il compimento del risorgimento italiano il secondo. Nell'uno e nell'altro però sono in alcun modo riferibili, anche soltanto nella loro ideazione, agli uomini di Stato e alle classi politiche che avevano portato a compimento nei due paesi l'unificazione nazionale. Questo fu infatti obiettivo di coloro che a quei governanti succedettero nella gestione del potere. Che infatti, se Bismarck e i suoi più stretti collaboratori erano piuttosto alieni dall'idea di impegnare la Germania in aree extraeuropee, dove avrebbero sorte occasioni di scontro con le altre grandi potenze già presenti oltremare e allora impegnate nella spartizione dei territori ancora non occupati dell'Africa, anche la destra storica, diretta per un quindicennio dai successori di Cavour, consapevole della debolezza del nuovo Stato italiano, il cui consolidamento riteneva essere l'obiettivo primario, volle condurre la politica estera del Paese in modo estremamente... limitandone prospettive ed azioni ad ambiti estremamente ristretti, o come si diceva allora, mantenendosi fermamente aderente al principio del piede in casa. Per la Germania, Fu infatti il gruppo dirigente, costituitosi intorno a Caprivi, che progettò le linee d'espansione del colonialismo tedesco, abbandonando la condotta meramente europea di Bismarck e ponendo in questo modo le basi di un imperialismo destinato a farsi concorrenziale nei confronti di quello di altre grandi potenze, già largamente presenti su scala mondiale e in primo luogo dell'Inghilterra. Per l'Italia invece fu la sinistra al potere che, sopravvalutandone le potenzialità del paese ed illudendosi delle sue prospettive espansionistiche, volle, quando questo era ancora del tutto impreparato, impegnarsi oltremare. Si gettò dapprima con De Pretis nella fallimentare questione tunisina, poi, illudendosi con Mancini sull'accoglienza britannica della proposta, offrì non richiesta all'Inghilterra una sorta di partnership nell'intervento che garantirà a quella il controllo dell'Egitto e della Valle del Nilo. Infine, con Crispi, ci gettò del tutto impreparata nella disgraziata avventura abissina. Questi gravi insuccessi, che hanno accompagnato gli esordi piuttosto timidi, mal concepiti e ancor peggio condotti del colonialismo italiano, contribuiscono a spiegarne non soltanto gli ulteriori ritardi, ma anche le titubanze e i timori che lo caratterizzarono fino alla guerra italo-turca dell'11, che parve finalmente consolidare il ruolo e l'immagine del paese. Ma vi è anche un altro fattore che ha contribuito a rendere talvolta incerto e talaltra contraddittorio il clima nel quale venne concepita nella penisola l'espansione oltremare da parte del ceto intellettuale e della classe politica di allora. Ed è la divisione che emergeva tra quanti sostenevano dover essere la ricerca delle colonie africane obiettivo primario della condotta internazionale del paese per accrescerne potenza e il rango tra le altre nazioni, e quanti invece, maggiormente sensibili alle tematiche risorgimentali di redentiste ed esaltati dall'antica presenza di molte comunità cittadine italiane ancora sotto dominio austro-ungarico, ritenevano invece primaria l'espansione verso la più vicina riva dell'Adriatico orientale, e cioè verso l'Istria, la Dalmazia, aggiungendovi anche l'Albania, la cui conquista era considerata necessaria per il controllo di quel mare e utile per una penetrazione verso la penisola balcanica. Se la motivazione ideale di ciò era trovata nell'eredità della Serenissima, che aveva trasformato l'Adriatico nel Sinus Venetorum, in realtà la spinta verso est poteva essere anche paragonata al Drang nach Osten della tradizione germanica. Un punto comunque appare abbastanza evidente fin dalle origini dei due colonialismi. Nella Germania guglielmina, effettiva potenza continentale, o meglio forse nella sua classe dirigente, nell'opinione pubblica che di massima ne rifletteva da presso le idee e i programmi, la conquista di possedimenti oltremare non venne sentita, se non in certi momenti e in particolari situazioni, come l'obiettivo centrale dell'azione di governo in materia di politica estera, anche se talvolta, come al tempo, ad esempio, dell'incidente d'Agadir, le vicende africane parvero coagulare notevolmente l'interesse nazionale. Ciò perché si riteneva da molti che quella politica dovesse avere in Europa il suo maggiore teatro d'azione e che, conseguentemente, le direttrici dell'espansione tedesca dovessero essere rivolte soprattutto ai territori confinanti con la Germania, specialmente ad Oriente, secondo una tradizione fatta risalire, in modo forse un po' azzardato, addirittura alle gesta dei cavalieri dell'ordine teutonico. Tradizione che spesso, e soprattutto nelle reiterate polemiche antitedesche scatenate a cavallo delle due guerre mondiali e recepite in taluni scritti, come ad esempio nell'estremamente faziosa storia del Taylor, si è voluto affermare, in una visione troppo schematica della geopolitica, costituisse un dato permanente della condotta dello Stato brandeburghese prussiano prima, della Germania unita poi. Ben diverse comunque, al di là dei tentativi di assimilarla alle altre manifestazioni di imperialismo tedesco, sembrano le vicende dell'influenza e della penetrazione economica e commerciale germanica nell'impero ottomano, e che si erano anche tradotte nel famoso progetto di una ferrovia che avrebbe dovuto collegare Berlino a Baghdad ed eventualmente a Bassora. Queste non appaiono configurabili né come le manifestazioni di un comune disegno colonialistico e neanche della ricerca di spazi destinati a un'espansione territoriale. Nel loro sostegno alla debole alleata turca urtavano però in ogni caso contro l'interesse inglese, sempre più manifesto, di assumere un ruolo egemone nel Medio Oriente, appoggiandosi al mondo arabo in rivolta contro l'impero ottomano. Tornando comunque al tema del colonialismo, nel senso che gli viene tradizionalmente attribuito, va rilevato come sia l'Italia sia la Germania, nella scelta del tipo di governo dei territori assoggettati, abbiano adottato di massima almeno dopo la prima fase del proprio insediamento, la via del dominio diretto delle proprie colonie, ossia dell'assunzione da parte dei propri organi, senza mediazioni di poteri, di strutture di rappresentanza locali, delle funzioni e dei compiti di gestione e di amministrazione di quei territori. Questa, se da un lato poteva apparire una scelta quasi obbligata, dettata cioè dalle circostanze, dato il livello di cultura e di civiltà delle popolazioni dell'Africa nera al momento della venuta dei colonizzatori, non avrebbe consentito, se non in modo estremamente limitato a livello meramente subalterno, l'utilizzazione di elementi tratti dagli ambienti indigeni. D'altra parte, sembrava meglio rispondere ai fini dell'espansione italiana e tedesca in quell'area. In tale scelta, peraltro, l'Italia sembrava attenersi, come in molte altre riguardanti la realtà giuridica e istituzionale, l'esempio francese, l'unico conosciuto a fondo e, almeno in linea di massima fino alla Prima Guerra Mondiale, studiato ed apprezzato da quanti si occupavano di problemi coloniali. Nel caso italiano, la via del dominio diretto derivava anche, e forse soprattutto, dalla volontà di non ripetere il macroscopico errore compiuto al tempo di Crispi della sua avventura africana, con un'interpretazione ottimistica e probabilmente forzata del famoso Trattato Lucciali, causa della prima tragica guerra italo-etiopica. Quel trattato, nelle illusioni di allora, dovendo garantire all'Italia il protettorato sull'Etiopia, avrebbe dovuto anche costituire la base giuridica di un dominio indiretto dell'Italia sulle terre del Corno d'Africa. Il ricordo di quell'errore portò sia alla decisione di non seguire più una simile via, decisione resa poi formalmente manifesta nel mutamento dei titoli di possesso della Somalia, quando fu attuato il passaggio dal protettorato su due sultanati di Obi e dei Mirgiurtini alla piena sovranità su quelle terre, che avrebbero integrate così nel sistema di dominio diretto introdotto nelle colonie del Corno d'Africa. Né il principio del governo diretto parve poi venire contraddetto dalla istituzione dei comitati consultivi libici, per qualche aspetto anticipatori dei parlamenti locali proposti nel primo dopoguerra dal ministro Giovanni Amendola, per ottenere dalle popolazioni della Tripolitana e della Cirenaica consenso e cooperazione all'amministrazione italiana di quelle regioni. Quegli organi, ideati con spirito veramente liberale, infatti, avrebbero dovuto garantire una sorta di rappresentanza agli indigeni di Libia, considerati sul piano civile e culturale più evoluti di quelle delle altre colonie. Il regime fascista, giunto al potere, non volle però realizzarli, malgrado non contraddicessero i principi del dominio diretto. Nel progetto d'Amendola, infatti, il governo della colonia sarebbe comunque restato saldamente nelle mani italiane, anche in vista dell'auspicata futura assimilazione dello status del paese alla madrepatria, alla quale, dall'indomani della conquista, questa sembrava mirare, anche e forse soprattutto sulla scia dell'esempio offerto dalla Francia in Algeria. Tale assimilazione avrebbe reso del tutto diverso l'assetto giuridico-istituzionale della Libia, in funzione della sua omologazione alle province italiane, da quello delle colonie dell'Africa orientale. Queste colonie, passate anch'esse, seppur tardivamente, dall'originario sistema di regime militare al governo civile, rimasero sempre nel tempo ben distinte dall'ordinamento nella legislazione della madrepatria. La visione decisamente subalterna della loro condizione, riflessa soprattutto nello status degli indigeni considerati sudditi e non cittadini, appariva per lo più finalizzata alla valorizzazione e alla colonizzazione agricola attuata dagli immigrati italiani. Ad essi vennero affidate in concessione o in proprietà aree da coltivare, soggette ad un particolare regime fondiario che oggi viene sovente contestato perché avrebbe leso il diritto dei nativi al possesso delle loro terre. Difficile, comunque, a questo punto, con le poche osservazioni e i pochi dati fin qui esposti, è formulare un bilancio delle due esperienze coloniali vissute dall'Italia e dalla Germania in un'epoca che tende ad apparire sempre più remota, anche a motivo della generale accelerazione storica della storia che il nostro tempo sembra averci fatto vivere. Un tempo che suscita ulteriori angosciosi interrogativi, ponendoci di fronte alla realtà di paesi una volta posti sotto la dominazione europea e precipitati successivamente dopo l'indipendenza, come quelli del Corno d'Africa nel caos, nella miseria, nelle guerre, e od ancor peggio, forse, ricaduti preda di primitivi, ancestrali, odi tribali, come il Burundi. Questa relazione introduttiva, che peraltro non vuole né deve affrontare simili problemi, anche perché si pone precisi limiti cronologici, non ha come fine la formazione di quel tipo di bilancio. Vuole soltanto servire all'avvio delle nostre discussioni e all'apertura di un serio dibattito sul colonialismo italiano e su quello tedesco, sulle loro origini, i loro contenuti, i loro esiti. Un dibattito che, muovendo dalla considerazione della presenza in ogni vicenda storica di elementi insieme positivi e negativi, potrà servire anche a orientare quegli ulteriori studi che oggi tendono a ricercare se ed in quale misura la passata colonizzazione italiana e tedesca in Africa possa considerarsi, anche se soltanto in determinati luoghi, in certi tempi e per qualche aspetto, un eventuale fattore di modernizzazione. Oppure se all'opposto, considerate per i fini proposti, i mezzi utilizzati e i risultati ottenuti, quella colonizzazione debba ritenersi in tutto o anche soltanto in parte negativa. È questo un quesito che adesso si è posto pure uno storico etiopico, attento alla verifica delle realizzazioni concrete, andando oltre il facile e sommario giudizio di condanna della conquista italiana della sua terra. Grazie. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich diesen sehr dichten Text jetzt in wenigen Worten referieren kann, da ich ihn auch eben erst mitgelesen habe zum ersten Mal. Ich will versuchen, ein paar wichtige Gesichtspunkte auf Deutsch noch mal nachzutragen. Non è fatica, interessante anche. Carlo Ghisaberti hat zunächst darauf hingewiesen, dass die Geschichte des Imperialismus, vor allem des Kolonialismus in der italienischen Geschichtswissenschaft vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg stark vernachlässigt worden ist. Das vorherrschend waren bestimmte, mehr moralisch geprägte Vorurteile über die Herrschaft der Weißen in Afrika, über die Unterdrückung, über den Rassismus und ähnliche Dinge mehr. Dass dabei auch verloren gegangen ist, eine bestimmte Betrachtungsweise, die etwa, damit hat er auch wieder geendet in seinem Referat, die nach den Gründen fragt und die nach den Ergebnissen fragt und die auch etwa nach dem Problem der Modernisation oder Modernisierung fragt, die Kolonialpolitik der europäischen Mächte möglicherweise in den kolonisierten Ländern gebracht hat. Diese Fragen oder neuen Fragen, darauf hat er besonders hingewiesen, oder überhaupt neue Fragen sind im Hinblick auf den italienischen Imperialismus gestellt worden, vor allem 1989 auf einem Kongress in Taormina und in Messina, der vom Archivio Centrale dello Stato von Renato Crispo organisiert worden ist und dessen Akten leider noch nicht erschienen sind. Crispo sagt, dass von dort doch neue Anregungen ausgegangen sind, die er nun aufgenommen hat in seinem Referat. Muss etwas weitergehen, das überspringen. Er geht davon aus, ich will das gleich selber auch wiederholen in meinem Referat, dass beide imperialistische Mächte, und das liegt ja auf der Hand, am Ende des 19. Jahrhunderts zu den verspäteten Imperialismen gehört haben, im Vergleich zu Spanien, Portugal, Holland und vor allem natürlich England und Frankreich, dass sich bestimmte Schwierigkeiten, Grenzen, Erfolglosigkeiten der imperialistischen Politik der Deutschen und der Italiener aus diesem verspäteten Zugang zu dieser Politik ergeben haben. Er hat dann einen Überblick gegeben über die Ansätze, die ersten Ansätze, die natürlich auch wieder vergleichbar sind mit anderen imperialistischen Mächten. Er hat auf die Tätigkeit von der Missionare verwiesen, der Kirchen in dem kolonialen Engagement. Er hat auf die geografischen Gesellschaften verwiesen und er hat auf die natürlich dann die besondere Aktivität von der Wirtschaft bzw. von Kolonialgesellschaften, die ökonomische Interessen hatten, verwiesen. Die beiden kolonialen Erfahrungen, damit schließt er dann diesen Überblick, endeten nicht gleichzeitig. In Deutschland endeten sie nach dem Ersten Weltkrieg. Im italienischen Fall, wenn man vor allem an das abessinische Abenteuer Mussolinis denkt, erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Achso, ich habe noch vergessen, ich muss doch entblicken, das kommt etwas später bei ihm, dass er dann auch noch den Überblick weiterleitet über Träger der imperialistischen Politik und darauf verweist, dass eben die Flottenpolitik durchaus nicht nur ein deutsches Phänomen war, sondern auch ein italienisches, immer mit einem anderen Gewicht natürlich, dass er auch auf bestimmte imperialistische Programme verweist, die es gegeben hat, etwa Mittelafrika oder eben eine Politik, die versucht hat, das Imperium, das italienische Imperium auf der anderen Seite des Mittelmeeres als eigenes Imperium zu gründen. Soweit die Gemeinsamkeiten, die er mehr im ersten Teil seines Referats betont hat. Im zweiten ging er dann mehr auch auf Unterschiede ein, ausgehend von Bülow, Reichskanzler Bülow, dessen Schriften, dem ein Selbstbewusstsein, ein imperiales Selbstbewusstsein nach der Auffassung von Ghisalberti zutage trat, das in dieser Weise in Italien kaum vorhanden war. Er spricht davon, dass die imperialistische Politik, gerade weil sie so viele Niederlagen erleiden musste, bei Dorgali und bei Adua, um die beiden Stichworte nur zu geben, eine Sorte, die Attraktion fatale gewesen sei, sozusagen eine Art fatalistisches Selbstbewusstsein. Eher in der Bitte? Ein Film? Ein Film, das ist die Firma Attraktione Fatale. Ja, er ging dann sehr stark auch dazu über, die Unterschiede zu betonen, die auch etwa darin lagen, dass die Politik einer, die Siedlungspolitik, die Provinzialisierungspolitik, eine wirkliche Inlandnahme der Kolonien auf der anderen Seite des Mittelmeeres bei den Italienern etwas anders darstellte als in Deutschland. Er kommt allerdings dann später auch darauf zu sprechen, dass es natürlich auch in Deutschland so etwas wie einen kontinentalen Imperialismus, einen Drang nach Osten gegeben hat, den er auch in gewissem Sinne den Bau der Bagdadbahn, also diese Stoßrichtung in das Osmanische Reich, einordnet. Wichtig ist ihm dann am Schluss noch gewesen, dass er betont hat, dass er den Status der Kolonien unterschiedlich, die deutsche und die italienische Politik, den Status der Kolonien unterschiedlich gesehen hat. Ich bin in der Eile nicht ganz so schnell jetzt mitgekommen, um das Ihnen noch voll nachvollziehen zu können. Ich denke, dass wir es in der Diskussion noch besser tun können. Übereinstimmungen insoweit, dass Übereinstimmung soweit, dass eine formelle Herrschaft sowohl von Deutschen wie von der deutschen wie von der italienischen Politik bis 1933 in den imperialistisch eroberten Gebieten letzten Endes angestrebt worden ist, dass aber die Behandlung dieser Kolonien im deutschen Falle doch mehr, wie Ghisalberti sagt, in einem traditionellen kolonialistischen Sinne erfolgte, während die Italiener in stärkerem Maße eine integralistische koloniale Politik auch im Hinblick auf die Siedlungspolitik betrieben haben. Am Ende sagt er, dass es gleichwohl schwierig sei, in einer solchen mehr fragenden Bilanz die Ähnlichkeiten und die Verschiedenheiten genau aufzunehmen. Dies sollte ja auch unter anderem und besonders die Aufgabe dieses Kolloquiums sein, dass das herausgearbeitet wird. Ja, ich glaube, soweit kann ich mich darauf beschränken. Grazie molto della tua fatica, grazie. Grazie a me. Non c'è tutto. Quindi il tuo testo in italiano, poi faccio la stessa cosa. Sì, già in italiano. Lo leggi in italiano? No, lo faccio. Da ich nicht ganz sicher war, wie ich referieren sollte, habe ich meinen Text auch italienisch vorbereitet. Was ich jetzt aber sehe, dass es wohl dann sinnvoll ist, dass ich gleichwohl hinterher auch noch ein wenig Deutsche zusammenfassend sage. Ich habe mich etwas mehr auf einen einzelnen Aspekt, auch durchaus in Absprache jetzt konzentriert, nämlich auf den Aspekt, ob und inwiefern, ausgehend von dem Gesichtspunkt, dass Deutschland und Italien verspätete imperialistische Nationen gewesen sind, sich Zusammenhänge auf dem inneren gesellschaftsgeschichtlichen Prozess der Länder und dem Übergang zu einer imperialistischen Politik ergeben haben. Ich lese jetzt also erstmal italienisch weiter. La constatazione che l'imperialismo europeo antecedente al 1914 sia anche da ricondursi a causa di politica interna non costituisce più oggi oggetto di seria discussione. Controverse continuarono ad essere invece le varie opinioni a proposito di quali particolari forze endogene abbiano dato luogo a tale fenomeno, a quale peso abbiano esse avuto nei confronti dei fattori esogeni. Come noto, infatti, in rapporto alla nascita dell'imperialismo, notevoli differenze di idee sussistono per ciò che concerne la valutazione dei fattori economici e precisamente riguardo alla questione se l'imperialismo sia da far derivare dalle condizioni strutturali inerenti al sistema economico capitalistico oppure se esso abbia tratto la sua dinamica a strutture precapitalistiche tradizionali. Se si accetta la seconda ipotesi, vale a dire se si prendono come punto di partenza le contraddizioni interne proprio nelle società imperialistiche, rimane tuttavia sempre aperta la questione se autrici dell'espansione imperialistica siano state le tradizionali elite detentrici del potere, ad esempio nobiltà, burocrazia, esercito, oppure le ascendenti elite della nuova borghesia. Nell'ambito della storiografia moderna, un accordo definitivo su questo problema dello studio dell'imperialismo non è stato ancora raggiunto ed una tale intesa sarà difficilmente realizzabile fino a che saranno adottati solamente modelli esplicativi globali valevoli per gli imperialismi di tutti i paesi. Non si può pertanto negare la necessità di dover procedere ad una differenziazione più chiara e più esplicita in rapporto ai diversi tipi di imperialismo. In altri termini, l'imperialismo tedesco e l'imperialismo britannico, antecedenti al 1914, non sono da ricondursi alle stesse cause ed essi non adempivano alle stesse funzioni storiche. Lo stesso dicasi per l'imperialismo francese nei confronti di quello italiano. A questo proposito si delinea pertanto la tesi che si debba procedere ad una distinzione fra un primo ed un tardo imperialismo, vale a dire fra un vecchio ed un nuovo imperialismo. Questa distinzione parte dal presupposto storico che i diversi stati europei abbiano subito nel corso del secolo XIX specifiche evoluzioni sociali su tre distinti livelli e precisamente sul piano del chiaramento dell'identità nazionale, sul piano dell'ordinamento costituzionale ed infine sul piano delle trasformazioni strutturali economiche. A questo riguardo, sempre essere fuori discussione che questi processi trasformativi abbiano a loro volta condizionato le rispettive strutture dei vari imperialismi nazionali. Essendosi verificati questi fenomeni, inoltre in maniere diverse, l'una dall'altra, parimenti ne risultano anche differenti forme di imperialismo. Determinante rimane infatti, in ultima analisi, se ed in quale maniera una nazione era da considerarsi progredita nella sua modernizzazione sui tre livelli sopra accennati. Nazioni come la Gran Bretagna e la Francia, ma ad esempio anche gli Stati Uniti, le quali all'atto del loro ingresso nell'epoca imperialistica non solo avevano concluso, perlomeno esteriormente, il loro processo di integrazione nazionale, ma bensì raggiunto anche un moderno ordinamento costituzionale, come pure effettuato dalla loro trasformazione in società industriale, devono essere necessariamente distinte da quei paesi non ancora altrettanto progettiti o la cui trasformazione si era appena effettuata. Fra questi ultimi è da annoverarsi in primo luogo in la Germania, sebbene una tale qualifica spetti anche all'Italia. In questi paesi venne a crearsi infatti una nuova forma di imperialismo, un tardo imperialismo direi, che si differenzia in maniera sostanziale dall'imperialismo di tipo tradizionale, ad esempio da quello britannico o da quello francese. A questo proposito mi sia concesso tentare di mettere in rilievo gli aspetti e le particolarità di questo tipo di imperialismo, proponendo alcune brevi tesi riguardanti appunto un confronto fra Germania e Italia. Primo punto. Sia la Germania che l'Italia, all'inizio dell'epoca imperialistica, vale a dire all'inizio degli anni Ottanta del secolo XIX, non annoveravano alcun possedimento coloniale d'oltremare. Nella secolare storia del colonialismo, inteso quale istituzione di una sovranità imperiale, ambedue i paesi non avevano avuto nessuna parte attiva rilevante in merito, Vale a dire, né i tedeschi né gli italiani possedevano all'epoca del loro ingresso nell'imperialismo moderno una tradizione colonialistica. La conseguenza di questo fatto storico fu che l'idea dell'espansione d'oltremare conoscesse agli inizi una diffusione piuttosto lenta per esplodere alla fine in una maniera aggressiva. La prima fase dell'imperialismo tedesco coincide con il governo Bismarck ed in Italia con l'epoca di Crispi. Sia Bismarck che Crispi orientavano la loro politica coloniale secondo il principio del primato della politica estera e delle rispettive esigenze risultanti da tale politica. Essi praticarono pertanto un imperialismo dall'alto, direi, senza larghe discussioni di politica interna o altri consensi di sorta. Nei confronti dell'imperialismo mancava infatti in questo periodo un specifico consenso ideologico. In una seconda fase, invece, si registrarono sia in Germania che in Italia larghi movimenti imperialistici di massa, assumenti, contrariamente alla fase precedente, un ruolo decisamente attivo nell'orientare i rispettivi governi, reticenti perlomeno all'inizio verso una politica imperialistica. In Italia questa fase coincise con il primo governo Giolitti ed in Germania con il governo Caprivi, già prima naturalmente, e in un certo senso anche con il governo Bethmann-Hollweg. Gli imperialismi di ambedue questi stati rappresentarono rispettivamente il risultato di massicci contrasti politico-sociali, i cui fronti vennero ogni qualvolta spostati all'esterno. Il fatto che l'imperialismo venisse usato come mezzo atto a risolvere conflitti politico-sociali era in stretta relazione con la mancanza di una tradizione coloniale. Più ridotte, infatti, erano le esperienze colonialistiche, meno numerosi i calcoli di redditiva politico-economici atti ad indicare in maniera esatta i vari vantaggi pratici delle colonie d'oltremare. Altrettanto più facilmente manipolizzabili si rivelavano le speranze e le aspettative colonialistiche. In altri termini, dato che le utopie imperialistiche non erano controllabili tramite di una propria realtà storica, tali aspettative si rivelavano sia in Germania che in Italia eccellentemente utilizzabili ad un scopo di politica interna. Secondo punto. Nei confronti delle altre nazioni europee, l'Italia e la Germania erano caratterizzate da una indubbia dislocazione storica. Esse avevano infatti appena concluso il loro processo di identificazione nazionale attraverso la definizione delle frontiere, mentre il processo della integrazione nazionale interna non era nemmeno iniziato. Nobiltà conservatrice e borghesia liberale erano gli unici pilastri dello Stato. In Germania di più la nobiltà, in Italia di più la borghesia. In Italia la parte cattolica della popolazione era rimasta, a partire dal non expedit del 1874, distaccata dalla vita politica, come del resto in Germania a partire dal Kulturkampf, mentre la classe operaia non era ancora affatto partecipe di questi sviluppi. La coscienza nazionale aveva avuto modo pertanto di svilupparsi sia in Germania che in Italia in una maniera alquanto blanda. Essa era tuttavia particolarmente suscettibile ad un improvviso mutamento in un vasto nazionalismo risolutamente aggressivo sia nei confronti del paese che dell'estero, tendente ad impedire il consolidamento dello Stato nazionale. Un nazionalismo si fatta natura costituì i presupposti sia dell'imperialismo tedesco che di quello italiano. Terzo punto. Quali nazioni ritardate, la Germania che l'Italia, pervennero ad un altrettanto ritardato ordinamento costituzionale? Lo Statuto Albertino e la Reichsverfassung dal 1871 si prestano, almeno dal punto di vista del contenuto, molto difficilmente ad un confronto, naturalmente. Ambedue le Costituzioni dimostravano tuttavia una certa affinità a proposito della loro incongruenza rispetto allo sviluppo sociale. Mentre in Italia mancava la prospettiva democratica di un Parlamento costituzionale, in Germania il diritto di voto generale ancorato nella Costituzione manteneva ulteriormente un carattere puramente plebiscitario, almeno fino a che non fosse stata realizzata la parlamentarizzazione del governo. E questo non succede prima un mese prima della Rivoluzione di 18. In ambedue i casi esisteva quindi un latente conflitto costituzionale fra le forze matrici dello Stato da un canto e quelle che lo ricusavano dall'altro. L'assenza di un largo consenso di base a proposito della questione costituzionale si rivelò pertanto una delle cause dell'inasprimento della confrontazione in materia di problemi imperialistici di fondo. Quarto punto. Formazione nazionale e ordinamento costituzionale erano ancora una volta, altrimenti che nel resto dell'Europa occidentale, in stretto rapporto con la trasformazione in Stato industriale. Crisi di sviluppo economiche, come quella del 1869 in Germania e quella del 1907 in Italia, si rivelarono pertanto più complesse e gravose di quelle negli altri Stati. Soprattutto esse non erano esenti da conseguenze politiche che mettevano a repentaglio i fondamenti del sistema politico. Esse traevano le loro origini dalla reazione da parte di taluni gruppi di interesse economici alla crisi. Sia in Italia che in Germania i grandi proprietari terrieri, come pure gli imprenditori dell'industria pesante, aventi fino allora interessi prevalentemente contrastanti fra di loro, si trovarono riuniti in una coalizione di natura protezionista. Quest'ultima indusse lo Stato sulla via dell'interventismo. Quinto punto. In questa simultaneità fra formazione nazionale, conflitto costituzionale e crisi di sviluppo economico, ebbe a crearsi per il giovane Stato nazionale tedesco e per quello italiano una crisi strutturale che si può riassumere sotto il concetto di partecipazione. Per partecipazione si intende in questo caso una presa di parte attiva nei riguardi del processo politico decisionale. Tale partecipazione fu soggetta sia in Germania che in Italia a differenti limitazioni. La mobilitazione politica di larghe fasce della popolazione era tuttavia già in atto. Ceti piccolo-borghesi, cosiddetti lavoratori e cattolici, esercitavano una pressione sempre maggiore, rivendicando una partecipazione alla vita politica. Le classi dirigenti, come si dice in Italia, adottarono nei confronti di queste rivendicazioni due strategie alternative. O una strategia mirante ad una integrazione oppure una strategia esattamente contraria, mirante all'impedimento di tale integrazione. Integrazione significa infatti promozione di nuove riforme politiche e sociali riguardanti quelle classi o quei gruppi non ancora partecipi al consenso nazionale. Il loro impedimento poteva trovare sfogo solo in una politica imperialistica. E questo è il sesto punto. Il nuovo imperialismo di tipo tedesco e anche italiano si può ricondurre pertanto ad una precisa costellazione storica e precisamente alla fine della politica di repressione autoritaria in ambedue gli Stati. Questa politica di repressione fu caratterizzata in Germania dal Kulturkampf e dalle leggi speciali contro i socialisti. In Italia tale politica si estese dalla battaglia di sterminio contro il socialismo, citato di Benedetto Croce, all'inizio degli anni 90 fino al governo militare del giro secolo. La repressione tuttavia non riuscì a frenare l'ascesa dei movimenti rivendicatori della partecipazione. Il tentativo di mantenere lo status quo del sistema costituzionale attraverso una limitata serie di riforme sociali e politiche si presentò pertanto come una soluzione ovvia. Questa via fu imboccata dal governo Caprivi in Germania e dal governo Giolitti in Italia. Se Bismarck considerava ancora la novità come il fondamento più sicuro dello Stato, Caprivi si poneva la domanda se era ancora ragionevole sopportare dei sacrifici a favore di questa classe. È noto, infatti, come egli abbia cercato di riformare il diritto di voto triclasse prussiano e come egli del Partito Cattolico di Centro ne avesse fatto praticamente un partito di governo. Ai lavoratori cercò di venire incontro abolendo le leggi speciali contro i socialisti e promuovendo leggi protettive del lavoro. Giolitio, 10 anni più tardi naturalmente sempre, dal canto suo ascrisse nel 1899 alla riforma radicale, cito Giolitti, un'opera eminentemente conservatrice, precisando che la monarchia italiana aveva bisogno di una base poggiante non sugli, cito, interessi di ristrette classi privilegiate, ma bensì sull'affetto dell'immensa maggioranza del paese. Anche lui, Giolitti, riconobbe la necessità dell'inclusione dei cattolici e dei socialisti nello Stato borghese. Egli diede infatti libero corso all'attività sindacale dei lavoratori dell'industria, opponendosi tuttavia all'organizzazione sindacale dei braccianti del Mezzogiorno. Approvò infine lo sviluppo in un sistema industriale interventistico, non ritenendo tuttavia significativamente compito dello Stato, cito, servire l'interesse di pochi capitalisti. I programmi politici, naturalmente solo riassunto da me, sia di Caprivi che di Giolitti, contenevano non poche contraddizioni e incompatibilità, così come era da considerarsi già di per sé contraddittorio il voler procedere ad una integrazione nazionale con lo scopo di mantenere l'egemonia della nobiltà o, nel caso d'Italia, l'egemonia della borghesia. Tale politica presentava tuttavia numerosi elementi atti ad una drastica modernizzazione dello Stato e della società, offrendo così a lunga scadenza apprezzabili punti di partenza per un compimento dello Stato nazionale su base democratica. Nuovo punto, I tentativi di Caprivi, come quelli di Giolitti, erano destinati a fallire. Contro tale politica si formò infatti un blocco opposizionale eterogeneo che attraverso la politica estera trovò una comunanza di intenti nella politica interna. In Germania tale politica trovò la sua espressione nella cosiddetta Sammlung. Essa fu intrapresa dal ministro delle finanze prussiano Johannes von Michel, non solo di lui, ma specialmente lui, e significò all'inizio l'unione di tutte le forze borghesi per una difesa contro la socialdemocrazia. Nella prassi, essa significava l'abolizione dei conflitti politici fra industriali ed agrari. Michel parlò di questo proposito di un cartello di tutta la società borghese, citato. Esso diventò infine la massima che doveva portare alla creazione nell'ambito dell'impero di un condominio agrario industriale, come ha detto famoso Kerr. Michel rifletteva al contempo anche sulle conseguenti implicazioni di politica estera. Egli parlava, Michel sempre, di, cito, entusiasmare i sentimenti della nazione attraverso l'interesse per questioni di politica estera, portandoli in tale maniera su di un unico piano comune, sempre Michel. La politica liberal-conservatrice della Sammlung doveva operare sotto il segno di una politica imperialistica mondiale, Weltpolitik. Tale politica doveva assumere in tale modo una funzione di politica interna. Anche in Italia si pervenne alla formazione di un blocco di opposizione borghese contro il sistema Giolitti, come usava definirlo sprecitativamente Luigi Albertini. Anche chi si giunse ad un'unione fra i vecchi fautori di una politica conservatrice come Sidney Sonnino e le élite dell'industria, le quali costituirono nel 1906 la Lega Industriale e nel 1909 la Confederazione Italiana dell'Industria. A partire dal 1910 la parola d'ordine di questa opposizione unificata fu Tripoli, spingendo Giolitti ad una guerra di conquista imperialistica in Libia. L'opposizione ne provocò il distacco sia dai socialisti che dai cattolici, facendo naufragare in tale modo la sua politica integrazionalista. Ancora alcuni giorni prima dell'intervento in Libia, e precisamente il 7 ottobre 1911, Giolitti ammoniva contro il pericolo di distogliere lo Stato attraverso problemi di politica estera dal suo principio compito di promozione del progresso interno. Più tardi, nelle sue memorie, egli ebbe inoltre ad assicurare di aver sempre avuto una versione di, cito Giolitti, cercare diversivi all'estero per conflitti della politica interna. Ma questa fu la via su cui egli fu inesorabilmente indotto. In Germania il segno di partenza per il nuovo imperialismo fu l'accordo di Helgoland e Zanzibar il 1 agosto 1890. In questo caso, indubbiamente meno spettacolare dell'impresa libica, il cancelliere del Reich, Caprivi, aveva cercato di porre fine alle rivalità coloniali nei confronti della Gran Bretagna attraverso il livellamento delle frontiere in Africa e la riacquisizione dell'isola di Helgoland nel Mare del Nord. Tale rinuncia colonialistica, peraltro limitata, valse a Caprivi il rimprovero di tradimento degli interessi di politica mondiale tedeschi, inducendolo, su pressione del Kaiser, ad una nuova politica imperialistica. La politica opposizionale della Sammlung ottenne in tale modo in Germania il medesimo successo che in Italia. Otto punto. Gli oppositori di una conciliazione politica dovevano pertanto il loro successo in ambedue i paesi al nazionalismo di recente formazione. Tale nazionalismo era orientato decisamente verso una politica estera, elevando l'illimitata espansione territoriale, specialmente d'oltremare, a criterio di politica di successo, considerando altresì l'approvazione di tale imperialismo quale criterio di lealismo politico nei confronti dello Stato. Dal punto di vista organizzativo, tale nazionalismo non aveva avuto né in Italia né in Germania notevole successo. L'Associazione Nazionalista Italiana del 1910 non era riuscita mai a superare, prima della guerra mondiale, il livello di un'associazione di circoli intellettuali superficialmente legati. Anche l'Alldeutscher Verband del 1891 non annoverò mai più di 40.000 associati, mentre invece l'Unione Consorella, il Flottenverein fondato 7 anni più tardi, annoverava oltre 1 milione di iscritti. Decisivo fu tuttavia il fatto che il nazionalismo espansionistico condusse una massiccia campagna di propaganda imperialistica che raggiunse come una specie di ideologia compensatrice vaste fasce della borghesia media e colta e facendo anche breccia in talune parti della classe lavoratrice. Si venne a formare in questo modo, in molteplici direzioni e nei partiti borghesi, una ideologia da gran parte giovanista, escludente ogni compromesso politico sia all'interno che all'esterno, propagando in tale modo la lotta di classe. Questo nazionalismo fu il fermento che unì l'eterogenea fronda imperialistica contro la politica conciliatrice sia di Caprivi e specialmente di Giolitti. Senza di esso il nuovo imperialismo sarebbe stato sia in Italia che in Italia inammeggiabile. Esso creò, infine, i presupposti di base che fecero dell'imperialismo antecedente al 1914 il principio dominante della politica tedesca e anche italiana. Grazie. Adesso tu fai il Ja, ich will versuchen, das in 3 Sätzen auch noch auf Deutsch zu sagen. Mir geht es darum, natürlich zugespitzt, thesenartig zugespitzt, ich habe 8 Thesen vorgetragen, die man natürlich dann im Einzelnen sehr differenzieren und diskutieren müsste, schon auch um das Gewicht der beiden Imperialismen zu unterscheiden. Ich habe das nicht getan, sondern habe es auf die Erklärungssituation hin zugespitzt. In beiden Ländern, verspätete Nationen, haben auch einen verspäteten Einstieg in die imperialistische Politik gebracht. Das heißt, in der Phase des entstehenden Hochimperialismus seit Anfang der 80er Jahre gehen Deutschland und Italien mit anderen Voraussetzungen herein als die übrigen älteren Kolonialmächte. Das ist meine erste Überlegung gewesen. Ich habe das dann versucht, auf drei Ebenen darzulegen, dass der Prozess der inneren Nationalisierung im Kaiserreich und dem Stato Nazionale in Italien drei Bedingungen erfassen muss. Einmal die Herstellung, das, was wir heute modern nationale Identität nennen, ich sage das mit aller Vorsicht, dass das eine nach außen und nach innen, das zweite die Herstellung einer modernen Verfassung, die den gesellschaftlichen Prozess auffangen kann und drittens der Übergang in den Industriestaat, in das industrielle System, dass das Zusammentreffen dieser drei oder relative Zusammentreffen dieser drei Prozesse in den beiden Ländern Deutschland und Italien zu höheren und zu andersartigen Konflikten geführt hat, besonderen Konflikten geführt hat, wie wir es in anderen Ländern nicht haben, und dass zu dieser Art von Konflikt ausdrücken soll, nun auch der Zusammenhang mit der imperialistischen Politik gehört, dass es eine zugespitzt eine Konfrontation in Deutschland sowohl wie in Italien gegeben hat. In Deutschland nach dem Sturz Bismarcks, in der kurzen Phase von Caprivi, in der versucht wurde, eine Art von sozialem Ausgleich zu betreiben, das ähnlich ich interpretieren würde, die Politik Giolittis seit 1901 bis zu seinem Sturz. Gegen diese Politik eines inneren Ausgleichs, immer zur Haltung des Status quo, keine Modernisierungspolitik in dem Sinne, dass hier nun eine moderne demokratische Gesellschaft herbeigeführt werden sollte, sich Kräfte in den jeweiligen Gesellschaften zusammengeschlossen haben, die bis dahin durchaus nicht zusammengegangen sind, um sozusagen diese Politik zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass man für diese Art von Interpretation den Begriff Sozialimperialismus verwenden kann. Ich habe das erst nicht getan. Ich meine aber, dass im Vergleich dies durchaus herauskommt, dass Außenpolitik, ich habe ein Zitat von Johannes Mikl gebracht und ich habe eins negativ von Giolitti gebracht, nur als Beispiel, dass sozusagen Außenpolitik, die unter imperialistischen Vorzeichen gemacht wird, bestimmte Ansätze einer vorsichtigen konservativen Reformpolitik zerstören kann und dass dies in der Tat das Ergebnis sowohl in Deutschland wie in Italien gewesen ist. Vielen Dank.